rosi, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Avanti, e 04 minuti, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Innanzitutto salutiamo redattrici e redattori che oggi non sono qui con noi per ovviamente impegni scolastici, ci mancherebbe. E poi 06 49 17 50 se volete parlare con noi in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa. E ora di buco.noblogs.org per ascoltare le puntate precedenti di questa trasmissione, che è già andata in onda una cinquantina di volte, non credo ancora raggiunte, ma ci siamo vicine. Tutti martedì sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e anche in streaming dal sito www.ondarossa.info. Ma le feste di Natale si avvicinano e si avvicina l'ultimo dell'anno, l'anno nuovo, e quindi è il momento di prendere la propria scarceranda. Per questo vi facciamo ascoltare uno spottino. Era la voi non fa niente, vostro mestiere fare gli amici, e avete fatto l'anno più del mente, siete pagate a fare gli assassini. Yeah. È uscita Scarcerando 2014, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno. Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Scarceranda è un'agenda autoprodotta da Rai Onda Rossa. Scarceranda viene donata e spedita alle persone prigioniere che ne facciano richiesta. Acquista la tua copia e segnalaci il nome di un detenuto o di una detenuta a cui inviarla. Disegni anticarcerari, ricette evasive e un quaderno con scritti contro il carcere. Tutto questo è Scarceranda. Puoi trovare Scarceranda presso gli studi di Radio Onda Rossa a via De Volci 56 oppure agli info shop di Movimento. Ma come dire, la pubblicità progresso di questa radio non finisce con l'invito rinnovato a prendervi la vostra scarceranda. Ma vi invitiamo anche lunedì prossimo, 23 dicembre, al Teatro Valle Occupato, un regalo a Radio Onda Rossa, serata Flusso in collaborazione e a sostegno di Ross, di Ror del Teatro Valle Occupato. E saranno presenti il Duca, Manolo Luppichini, L'Aspro, Elio Germano, Gli Assalti Frontali, Zero Calcare, Capi e Dai pure te. Si partirà alle 21 con un reading musicato della rivista letteraria L'Aspro, si proseguirà poi con Elio Germano che presenta i libri Il Tacco del Duca e 12 di Zero Calcare, saranno ovviamente presenti gli autori, inoltre la lettura sarà intervallata dalla lettura della prefazione del Tacco del Duca scritta da Elio Germano stesso e da alcune strisce del libro 12 di Zero Calcare. Ci sarà poi una proiezione, ci saranno poi proiezioni video in concerto a seguire Bestie Rare, Assalti Frontali e poi un live set di swing natalizio di Ocape nel foyer e la dance hall di Dai pure te. Tutto questo lunedì prossimo al Teatro Valle Occupato per la pre vigilia di Natale o per il post sostizio d'inverno, fate un po' voi. Dark, where others see their target, divine symmetry. A mortal with potential of a superman. I'm living on. I'm tethered to the logic of Homo. Ma torniamo alle tematiche più propriamente inerenti a questo spazio radiofonico che appunto si occupa di scuola dal punto di vista di chi nella scuola ci lavora e iniziamo con una notizia che viene dalla Toscana, da Prato in particolar modo. Sì, è una notizia simile a un'altra notizia che avevamo già dato nell'aprile dell'anno scorso e che ha trovato ampia eco sui giornali di ieri in modo particolare, e il fatto che evidentemente molte scuole della Toscana, pare di capire, hanno dei grossi problemi a pagare i supplenti, temporanei, e conseguentemente i presidi, i dirigenti scolastici, nell'incertezza su come ripartire i fondi, essendo superiore il numero di persone che devono essere pagate rispetto a quelle che si riuscirebbero a pagare con i fondi, e estraggono a sorte. È successo ancora una volta, ripetiamo ancora una volta, perché il caso si era già verificato nell'aprile dell'anno scorso in una scuola, in un liceo linguistico di Grosseto. È successo ancora una volta in Toscana e precisamente nell'istituto comprensivo di Prato, Iva Pacetti, i nomi dei supplenti che avrebbero potuto ricevere il compenso per il mese di novembre. È importante sottolineare che si tratta dello stipendio di novembre che deve essere ancora pagato, sono stati estratti a sorte. La preside aveva a disposizione infatti solo 5.000 euro che non le sarebbero bastati per tutti i precari che dovevano essere pagati, che dovevano ricevere lo stipendio, che avevano svolto su supplenze brevi e insegnanti e personale ATA, erano 18 complessivamente, e su questi 18 sono stati sorteggiati i 5 fortunati che avranno lo stipendio. Si tratta di 4 insegnanti e un addetto ai servizi scolastici. Secondo fonti sindacali, in realtà non si tratterebbe di un caso isolato, ma semplicemente dell'unico caso che è arrivato e filtrato alle cronache giornalistiche. In particolar modo la notizia in prima istanza è stata data dal Tirreno, perché ci sarebbero altri istituti comprensivi e superiori che avrebbero esaurito i fondi del Ministero Economia e Finanza, da cui dipende il pagamento degli stipendi dei precari per le supplenze brevi. Gli insegnanti di ruolo, quelli che sono in dotazione organica nelle scuole, vengono invece pagati dal MIUR. E quindi appunto si tratterebbe di un caso rappresentativo della situazione di altri. Sì, la UIL Scuola in particolare dice che quella di Prato sarebbe appunto soltanto un esempio, e che in altre scuole hanno deciso di fare, insomma, hanno scelto altre vie invece. Una turnazione sì, di tipo diverso. Si dice, oppure appunto hanno dato piccoli acconti a tutti. Bello. Ma il fatto appunto. Quanto gli hanno dato? 150 euro? Non lo dice la UIL. Dice appunto, anzi fa dei conti, che dice che per esempio nella scuola di Prato avrebbero avuto, se avessero voluto pagare tutti, 270 euro a testa da dare. Lo immaginavo, insomma, perché voglio dire, il livello delle retribuzioni, soprattutto dei precari che non hanno scatti di carriera, evidentemente è un livello molto basso. Lo stipendio si aggira, come anche il nostro, che non abbiamo avuto scatti di carriera, intorno ai 1.280 euro al mese. Un acconto su 1.280 euro sono appunto 200 euro. E diciamo che abbiamo detto, era già accaduto sempre in una scuola toscana, in un liceo linguistico di Grosseto, e in quel caso è addirittura intervenuta la regione toscana, che essendo assurda, diciamo così, agli onori della cronaca la vicenda, la regione toscana ha poi anticipato gli soldi per gli stipendi dei precari. In questo caso non è intervenuto nessuno ancora, e comunque ricordiamolo, si tratta dello stipendio di novembre. Sì, e ricordiamo appunto anche che il gioco è che il Ministero dà ogni anno un tot di soldi a ogni scuola, con cui appunto si copre si devono coprire alcune spese, molte spese in realtà, tra cui appunto le supplenze brevi, mentre le supplenze annuali sono tornate a essere pagate direttamente dal tesoro. Ricordiamo che questo stanziamento annuale alcuni anni è saltato. Cioè è saltato durante gli anni Gelmini, diciamo. Sì, c'è stato sì. Un anno in cui le scuole non hanno ricevuto niente, nella la maggior parte delle scuole, e quindi da allora molte scuole si portano dietro un cronico Credito. Sì, è un credito che ormai non è più un credito, perché nessuno questi soldi li tirerà più fuori, però di fatto si portano fuori un buco nella cassa che in alcuni casi probabilmente sarà molto difficile che venga colmato, e quindi come dire, al di là del fatto che ovviamente non ci sono soldi per come dire, prestazioni eccezionali, nei casi peggiori come in questo si arriva anche a non avere i soldi per pagare gli stipendi. Voglio uno scandalo, voglio uno scandalo, l'ultimo scandalo, voglio uno scandalo io con te e tutti i figli. E sarebbe molto bello che tutto ciò facesse scandalo, ma sappiamo benissimo che le notizie riguardano la scuola scandalo non lo fanno assolutamente. E quindi niente, proseguiamo con questa nostra puntata dell'Ora di Buco e andiamo a leggere un articolo che è apparso pochi giorni fa sul Corriere della Sera dal titolo A scuola c'è un anno di troppo. Sapete, ne abbiamo già parlato in una puntata precedente, che esiste la proposta, chiamiamola così, di tagliare l'ultimo anno delle scuole superiori e quindi di ridurle a 4. Vi abbiamo Sì, è una proposta di cui abbiamo parlato per quanto riguarda appunto l'avvio di questa sperimentazione, ma è una proposta che dopo aver raccolto il favore della ministra Carrozza, che non ha esitato ad affermare che se ci fosse stata ai tempi del suo diploma, della sua iscrizione alle scuole medie superiori, un tipo di scuola del genere, lei non avrebbe esitato a iscrivervisi, e dopo aver raccolto i favori della ministra Carrozza sembra raccogliere o diventare uno dei punti addirittura del programma di Letta in sede appunto di dichiarazioni per il voto di fiducia. La lunga dichiarazione di Letta in occasione del voto di fiducia dell'11 dicembre prevedeva una serie di passaggi sull'istruzione, sull'università, sulla ricerca e per quanto riguarda la scuola, come sappiamo, insomma, il Premier l'11 dicembre ha annunciato una costituente della scuola entro giugno, evidentemente è angosciato dalle scadenze, perché è un susseguirsi di scadenze questo paragrafo sull'istruzione e sulla scuola, ma questa costituente della scuola dovrebbe avere come esito, dovrebbe fare in modo che i ragazzi si diplomino prima e con competenze maggiori, quindi, come dicevamo, presto e bene, anche nell'ottica del nostro Premier. Presto e bene, evidentemente, sta insieme, è la nuova riformulazione del proverbio salsa neoliberista, non so come la vogliamo chiamare. Questi sono convinti che si può fare così, e naturalmente qual è uno dei motivi, non solo quello che Letta ci ha detto, ma uno dei motivi è che dobbiamo adeguarci agli standard europei. Non è vero, è una menzogna. Sì, ma tutto viene fatto passare come un'esigenza pressante di adeguamento agli standard europei. Lo sappiamo perfettamente noi, e lo sanno anche i nostri ascoltatori, che non è vero che in tutti i paesi europei i ragazzi escono da scuola prima dei 19 anni come escono in Italia. In realtà non è così, l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo, in realtà solo nella metà dei paesi europei i ragazzi si diplomano a 18 anni, a 19 anni terminano invece i sistemi di istruzione di Bulgaria, Danimarca, Estonia, Italia evidentemente, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Quindi non è vero che ci dobbiamo adeguare agli standard europei, o comunque non esiste uno standard europeo in materia, ma evidentemente i ragazzi variamente escono dalla scuola superiore a 18 o 19 anni, nella misura percentuale di metà a 18 e metà a 19. Mentre in quasi tutti i paesi europei l'obbligo scolastico dura di più che in Italia, ma di questo non ne parla nessuno. Questo non costituisce né standard né obbligo di adeguamento per noi, evidentemente non è interessante per nessuno questo. Comunque, stavamo parlando appunto di questo argomento e abbiamo trovato questo interessante articolo lungo, insomma, di uno dei maggiori quotidiani dei quotidiani storici di questo paese, il Corriere della Sera, uscito il 5 dicembre, l'articolo A scuola c'è un anno di troppo, ed è un articolo a due firme. Sì, è un articolo a due firme, è firmato precisamente da Gianna Fregonara e Orsola Riva, ma queste due firme, tra queste due firme c'è una grande sorpresa che tale da lasciare sconcertati, perché la prima firmataria, cioè Gianna Fregonara, detta Gina, se andiamo a vedere, oltre al fatto che è detta Gina, scopriamo anche che è coniugata con Letta. Con Enrico Letta. È la moglie di Enrico Letta. Lei il 5 dicembre si esprime dalle colonne del Corriere della Sera. Notiamo che questa signora normalmente è impiegata nel Corriere della Sera per quanto attiene alla cronaca di Roma, mentre invece sembra che il Corriere le abbia dato l'incarico già nel corso dell'estate di occuparsi di scuola, un argomento a caso anche leggero, e questo il 5 dicembre, in singolare sintonia con la dichiarazione poi dell'11 dicembre del Premier, appunto, è il suo primo contributo alla questione scuola. Il primo contributo alla questione scuola si intitola "A scuola c'è un anno di troppo". E sentiamo, insomma, come dire, la signora Fregonara che cosa ci racconta. Un'altra, come dire, un'altra intellettuale che si è fatta da sé, come il marito, abbiamo visto, insomma, che appena uscita dall'università è stata selezionata dal Corriere della Sera per la propria scuola di, per la scuola di giornalismo. Di giornalismo. Quindi, insomma, una donna evidentemente che si è fatta da sé, come del resto il marito, che non ha nessun santo da nessuna parte, persone che hanno combattuto, che hanno lottato per il proprio futuro e che poi hanno, insomma, anche una certa comunione di intenti, visto che il marito, facendo il Premier, cerca di massacrare l'ultimo brandello di scuola pubblica e rimane, e lei lo propaganda dalle pagine di uno dei due quotidiani a più alta tiratura in Italia. E sinceramente trovo che la signora Fregonara, appunto, nella scrittura abbia un'efficacia stupefacente, perché è veramente come dire, illuminante leggere l'incipit dell'articolo. "A scuola c'è un anno di troppo", inizia l'articolo, "sarebbe una boccata d'ossigeno per le casse dello Stato, risparmio stimato 3 miliardi quindi, voglio dire, l'ottica è tutta in questa prima frase, mi sembra, non si cerca no, neanche. Hai saltato la primissima frase, io lo devo dire per onestà. Ma perché comincia dicendo "farebbe la felicità dei ragazzi e, secondo una parte consistente di pedagogisti ed esperti, anche il loro bene". Poi cosa... solo dopo vengono le casse dello Stato. È l'incipit dell'articolo. Allora, con risparmio assicurato e felicità dei ragazzi, e cosa c'è di meglio? È anche ovvio che se l'obbligo scolastico glielo togli del tutto ai ragazzi e li mandi in giro a bagordare, ottieni un triplice effetto: hai una generazione di decerebrati ignoranti, ai ragazzi felici e un risparmio anche più consistente, direi. E forse, che ne so, i bar vendono di più la mattina. Comunque, quindi si può rilanciare l'economia. Anche l'economia. Prova a proporla alla signora Fregonara, magari. Quindi, insomma, sarebbe una boccata d'ossigeno. Andiamo avanti nella lettura, direi, insomma, perché sì, il Corriere, come dire, è la punta di diamante dell'intellettualità italiana. Sì, sì, e ci informa la punta di diamante dell'intellettualità italiana che la proposta di tagliare un anno di scuola piace ai professori universitari e agli imprenditori, e allora siamo a posto. Per cui non solo i ragazzi felici, ma anche le lobby dei professori universitari e poi il ceto imprenditoriale sarebbero felici. Ma chi sono, lo voglio dire proprio in sintesi, gli unici stronzi che si contrappongono? Allora, contrari, dice la signora Fregonara e la sua collega, dicono, contrari senza se e senza ma, quindi, come dire, integralisti, irragionevoli... Sì. Eccetera. Neanche capacità di confronto, gente proprio... I sindacati degli insegnanti. Non gli insegnanti, badare bene, perché qualcuno potrebbe riconoscerci, sì, ma i tanto vituperati e sempre vituperati sindacati, che sono evidentemente il blocco per qualunque tipo di possibile riforma in Italia. I ministri dell'istruzione da 10 anni a questa parte sono personalmente favorevoli, eppure chi se ne frega. Lo avranno confidato alla signora Fregonara il loro indirizzo personale rispetto al problema. Ma il dibattito politico è fermo da quando nel 2001 fu sotterrata la riforma Berlinguer. Ma magari l'avessimo sotterrata la riforma Berlinguer, veramente è stata varata, che io ne sappia, sì. E tuttora ne subiamo le conseguenze. Sì, ma il cruccio di Gianna Fregonara è che non è stata varata integralmente, perché, se tu ricordi, la riforma Berlinguer prevedeva anche la riduzione di un anno di scuola, che, se non ricordo male, era stata identificata nella scuola media, cioè prevedeva un ciclo unico di 5+2 di ciclo, diciamo, primario tra medie e elementari, e poi sempre 5 anni di liceo, insomma, era anche tradizionalista nell'impianto. No. Sì, ho capito, ma mi c'è entrato l'avverbio integralmente, quindi comunque, vabbè, non importa, non è per questo che voglio sminuire questo splendido articolo. Se puoi proseguire un attimo. Sì, no, no, e si ricorda in successione, insomma, proseguendo l'articolo, stiamo parlando di uscire da scuola un anno prima, a 18 invece che a 19, in linea appunto con gli altri paesi europei e poi con gli Stati Uniti, nonché con il gigante cinese. E a questo punto abbiamo richiamato tutti quanti i capisaldi, diciamo, di una certa ideologia, se vogliamo, e siamo contenti tutti. Il modo più semplice, ed è veramente agghiacciante l'inizio di questo articolo, sarebbe tagliare un anno di superiori, cioè non c'è veramente riflessione, non c'è dibattito, non c'è nulla, tutto nelle prime righe, risparmio, come si ottiene il risparmio, si taglia un anno di superiori. Finora il liceo di 4 anni, e ne parlavamo prima, è stato avviato a livello sperimentale solo da alcune scuole paritarie lombarde, e in questo è evidente il senso, diciamo, di elite e di possibilità elitaria che si vuole suggerire in maniera veramente schifosa, le scuole paritarie lombarde, con l'ok del ministro, e però alcuni presidi di licei e istituti tecnici statali da Verona a Bari sono rimasti affascinati, diciamo, da questa opportunità, e quindi dall'anno prossimo la secondaria superiore di 4 anni parte anche nelle scuole pubbliche, buone ultime ovviamente nell'ottica della moglie del premier rispetto alla scuola paritaria. Di queste abbiamo già parlato, comunque si tratta di 4 scuole in tutta Italia, se non sì, sbaglio. Sì, si tratta di 4 scuole in tutta Italia, però evidentemente quello che anche nella sperimentazione sembra un fenomeno marginale è l'ultimo modo che è stato escogitato per demolire definitivamente la scuola pubblica italiana, nell'ottica appunto del ritorno alla una politica dei tagli, ritorno nel senso non perché sia mai stata abbandonata questa politica nei confronti della scuola pubblica. E quello che è agghiacciante è che si tenta e si tenterà anche in futuro di far passare questo come un'innovazione che porta i ragazzi a far prima e a far meglio, a far prima e a far meglio, non si capisce per che cosa, ma l'ottica che proietta questo articolo, che forse potremmo continuare a leggere ancora in alcuni passaggi, è quella a far prima e a far meglio per entrare in un mondo del lavoro che, come sappiamo, sostanzialmente non esiste o non esiste più. L'altra, volevo dirti nel frattempo, scusa, ma sono andata a vedere perché non vorrei sembrare poco corretta, l'altra no, firma di questo articolo che si chiama Orsola Riva, sì. Non vorrei sembrare il Fatto Quotidiano, però appare così in un articolo di polemica praticamente sugli ammanicati dentro il Corriere della Sera, perché la moglie del critico cinematografico Paolo Mereghetti e figlia di Massimo Riva, giornalista amico di De Bortoli. Cioè, hanno preso 2 persone che non devono niente a nessuno per fare questo pacchettino sui licei quadriennali. Del resto lei stessa si autopresenta in un chi è chi della 27esima ora del Corriere, si autopresenta così: sono nata a Milano nel 69, laurea in filosofia teoretica alla statale, al Corriere dal 99. 2 figli, Giulio e Giorgio, di 9 e 6 anni, entrambi iscritti alla scuola pubblica, punto e basta. Non ha fatto un cazzo questa donna, diciamoci la verità, oltre a prendere dei gran calci in culo, scusate. No, e quindi niente, loro si occupano del nostro merito, è per questo che, nel senso, noi siamo ben lontani dai discorsi sulla casta, non ci interessano, non si vogliono sapere. Questo giornale che siamo Corriere della Sera ci fa schifo a prescindere, però così, tanto per rimarcare 2 o 3 cosette. Continuiamo in questo articolo quindi di Gianna detta Gina Fregonara e Orsola Riva, che ci dicono: in realtà la rimodulazione dei cicli scolastici era diventata legge già nel 2000, legge 30, ministro Luigi Berlinguer, come dicevamo prima appunto. Le superiori rimanevano di 5 anni, ma media e elementare erano accorpate in un ciclo unico di 7, quindi ne saltava 1. La riforma fu seppellita da Letizia Moratti, arrivata a Viale Trastevere nel 2001, e non seppellì solo questo la Moratti, ma insomma. Nemmeno la Gelmini vuole esercitare le sue forbici sul percorso dalle elementari alle superiori. Le forbici la Gelmini l'ha usate parecchio. Le esercitate altrove, però. L'ultimo a esprimersi a favore di una riduzione del curriculum dei liceali è stato Francesco Profumo, cioè, ve lo ricorderete, insomma. Autorevole. Che lo aveva indicato tra le priorità del 2013, e quindi mi sa che è andata, insomma. Ma le forze politiche su questo tema sono in difficoltà. E secondo me il PD è diviso, però non so gli altri, perché sospetti che sia così, insomma. Sì, sì. Perché, come dimostra anche il destino della riforma Berlinguer, i sindacati fanno muso sulla riduzione di un anno, temendo il taglio degli insegnanti. Ed è un'ottica veramente schifosa questa, perché l'unico, per come viene presentato, ve ne renderete conto, nonostante la nostra lettura non sia propriamente organica, sarebbe la panacea di tutti i mali il liceo quadriennale. Gli unici a fare muro sono i sindacati degli insegnanti, che temono di perdere il posto di lavoro. Tenuto conto che noi lo temiamo, perché dopo una cosiddetta riforma che ce ne ha fatti perdere 80.000 di posti di lavoro, capirete, e più 40.000 di ATA, che uno un po' si preoccupa, però non è solo quello, insomma, nelle scuole non c'è più nessuno, tra un pochino, e l'importante ci sarà che ci sia chi chiuda e apre la porta, insomma. Andando avanti, salterei un pezzettino. Fuori dai nostri confini ci sono altri paesi, per la verità non molti, in cui la scuola inizia un anno prima. E qui hanno, come dire, queste due giornaliste la correttezza di dire che non sono poi tanti la scuola in cui comincia l'anno prima: Inghilterra, Malta, Cipro, Irlanda del Nord, dove addirittura si comincia a 4 anni. Forse potremmo mettere già nei reparti maternità. Gli Stati Uniti invece partono dai 6 come noi. Idem la Francia, il Belgio, la Spagna, la Germania, l'Austria. Sono citati random questi paesi, non so con quale criterio, ma questa ipotesi non incontra il favore dei pedagogisti. Spiega Susanna Mantovani, professore ordinario di pedagogia generale alla Bicocca di Milano. Ma secondo te perché le docenti universitarie si chiamano professore ordinario e non professoressa ordinaria? E perché è un sintagma sclerotizzato e loro stesse si rifiutano di utilizzarne uno diverso. Non vedo un'altra possibilità rispetto a questo. Ma chissà perché si è sclerotizzato il maschile per non i docenti universitari. Non lo so, perché invece professoressa per le docenti di scuola media è tipico, no? Maestrina poi te lo regalano. E comunque, andando avanti nella lettura, i paesi che, dice questa Mantovani, la pedagogista, i paesi che hanno i migliori risultati nei test OCSE, come ad esempio la Finlandia, iniziano addirittura a 7 anni. E poi, avendo noi una buona scuola dell'infanzia, mi pare illogico tagliare un anno all'inizio del percorso scolastico solo perché il liceo in Italia è sacro. Cioè, cosa vuol dire? Che il liceo in Italia è una scuola di merda e allora non conviene tagliarlo, mentre invece la scuola dell'infanzia è buona e teniamola? Ma che... Sì, lei ha detto questo, tutto detto da una signora che non sa come è organizzata la scuola, perché scuola dell'infanzia è la materna e il nido in Italia, la primaria si chiama primaria. E sarà quella che è buona, perché la scuola materna e il nido, non lo so, cioè è agghiacciante. Comunque Luigi Berlinguer, che semmai l'ultimo anno di scuola elementare, o meglio, lo si potrebbe accorpare alla prima media, spiega a La Lettura l'autore dell'inapplicata riforma del 2000. Ma no, lo taglierebbe perché evidentemente c'è un'intervista di Luigi Berlinguer in cui lui prende posizione rispetto a questa cosa, nel senso di accorpare, togliere un anno tra scuola elementare e scuola media sostanzialmente. Ma Berlinguer lo chiamano sempre perché è un saggio? Cioè, quale caratteristica ha per cui viene chiamato in eterno sulla scuola? Forse perché gli risponde, io credo che sia questo il... Sarà questo. Al telefono, dico. Ormai gli istituti comprensivi, dove elementari e medie si trovano anche fisicamente nello stesso posto, sono molti. 5 scuole hanno chiesto questa sperimentazione, ma il Ministero non ha dato il permesso. E perché evidentemente l'intenzione del Ministero è un'altra, non è quella di ridurre un anno. Non dico che sarebbe meglio, personalmente sono convinta di no in ogni caso, ma l'intenzione del Ministero è un'altra. Comunque anche Luigi Berlinguer, cioè il problema dal suo punto di vista è logistico, cioè oramai ci sono gli istituti comprensivi che hanno fisicamente nello stesso posto elementari e medie, quindi tagliamo lì perché è più comodo, cioè non devono fare strada ai ragazzi. Che razza di discorso è? Sì, mi sembra proprio una riflessione sulla scuola, sull'impianto culturale della formazione dei nostri studenti veramente profonda, ecco. Ma e fra l'altro ci sono gli istituti comprensivi in cui la primaria e la media stanno nello stesso plesso, si dice in termini tecnici, ma istituti in cui no, cioè nel senso, quindi quelli che li facciamo. Non lo so, però i criteri sono questi con cui si procede al taglio. Comunque, continuando nella lettura di questo splendido articolo che vi ricordiamo, A scuola c'è un anno di troppo, a firma di Gianna detta Gina Fregonara e Orsola Riva. Andiamo avanti. E la soluzione più a portata di mano, però non si capisce a parere di chi, non è tagliare anticipando l'ingresso a scuola. La soluzione non è tagliare un anno tra elementari e medie, ma più a portata di mano, non è la più utile, la più confacente, la più no, è a portata di mano, e quindi facciamo quella a portata di mano. Resta quella di rivedere i programmi delle superiori e tagliare a fine percorso. Non solo perché, come spiega la nota pedagogista Susanna Mantovani, già citata dalla collega, quella che si definisce professore ordinario, i ragazzi sono stufi, privi di motivazione, e questo dimostra che il vecchio impianto gentiliano è affaticato. E questa è la qualità della motivazione, i ragazzi sono stufi, non solo per questo, ma anche ma gliel'hanno detto ragazzi, sono stufi perché sì, si fa un anno di troppo, e lei fa la pedagogista d'altra parte, quindi è qualificata, mia fa la maga, fa la pedagogista, stato d'animo dei ragazzi, loro sono stufi e quindi e però anche perché l'ultimo in questo modo potrebbe diventare un anno di passaggio in cui si esce dalla gabbia dei programmi per incominciare a nuotare da soli. Si potrebbe pensare che è pronto, che chi è pronto può iscriversi subito all'università alla fine dei 4 anni, e dopodiché, e su questo parere già autorevole obiettivamente di per sé, che parla della soluzione più a portata di mano, si va a innestare nella logica del Corriere Nazionale il parere ovviamente di Andrea Gavosto della Fondazione Agnelli, e che obiettivamente mancava in questo quadro. E la Fondazione Agnelli, che ha un minimo di pudore, ha conservato evidentemente un minimo di pudore, la questione non è tanto di risparmi per lo Stato, oppure addirittura di non perdere tempo nell'ingresso del mondo del lavoro, perché questo tema riguarda soprattutto i laureati che si confrontano con i loro coetanei stranieri, molto meno invece i diplomati che restano a lavorare in ambito locale. È difficile compenetrare la logica, perché prima ti diplomi e poi ti laurei, quindi comunque lui pensa così, insomma. E per i laureati i ritardi maggiori effettivamente si accumulano all'università. Il punto però è che il nostro sistema il nostro sistema distribuisce l'investimento sul capitale umano, cioè sull'istruzione, in un modo che funzionava 50 anni fa, quindi c'è l'esigenza di modernizzare. Oggi anche lui conviene con la Mantovano che i ragazzi nell'ultimo anno delle scuole superiori si annoiano, vorrebbero andare all'estero e invece sono bloccati lì. Sarebbe molto più utile riservare un anno di istruzione o formazione da poter usare durante l'esperienza lavorativa sul modello anglosassone o scandinavo dei prestiti d'onore, e qui abbiamo veramente un potpourri di cose allucinanti, insomma. Comunque anche qualcuno in più, in realtà, se proprio vogliamo essere precisi, non so, glielo possiamo dire alla signora, perché la riforma Berlinguer è del 23, e dal 23 al 2013 non ci sono 50 anni, ma ce n'è qualcuno più, anzi alla Fondazione Agnelli va detto. Sì, va detto alla Fondazione Agnelli, e alla Fondazione Agnelli va ricordato che forse sarebbe auspicabile che un ragazzo che esce dalla scuola a 18 anni possa avere anche più di un anno per rivedere la sua formazione dopo essere stato precocemente inserito nel mondo del lavoro. Anche questa cosa del modello dei prestiti d'onore, insomma, io lascerei pure perdere. Per questo parlavo di un potpourri veramente schifoso, perché si affastellano proprio la merda della merda, si mette tutta insieme. Il prestito d'onore è quello che si usa soprattutto negli Stati Uniti, dove pare che, insomma, mediamente uno studente che non ha una borsa di studio e che quindi deve pagare l'università e che quindi deve fare un prestito d'onore per potersela permettere, poi rimanga debitore per tutta la vita. Sì, è un indebitamento precoce dei ragazzi, da cui evidentemente non ci si riesce, a quanto pare, più a svincolare. E forse dobbiamo andare un po' in sintesi, perché sennò ci perdiamo l'ultima notizia. Che altro di interessante ci dicono? No, ma ci dicono poco altro obiettivamente, perché la falsariga è questa, e mi sembra obiettivamente che fosse già sintetizzata nelle prime battute. Si affastellano tantissime considerazioni, alcune anche completamente inutili, dei riferimenti illogici, come per esempio il fatto che in alcune scuole c'è la possibilità di frequentare nell'ultimo anno di corso un corso universitario e sostenere il relativo esame e di vederselo eventualmente riconosciuto successivamente all'atto dell'iscrizione all'università, che è cosa diversa rispetto a togliere ai ragazzi un anno di scuola, per arrivare sostanzialmente a sostenere la bontà della soluzione identificata, veramente non si sa su quali basi, non dico solo dal punto di vista degli estensori dell'articolo, ma anche dal punto di vista di chi viene chiamato come consulente, perché si parla esclusivamente di cose più pratiche, più utili o eventualmente più logisticamente sostenibili. Ci sono anche altre autorevoli opinioni, insomma parla ancora Raffaele Mantegazza dicendo delle cose assurde, ma se vuoi puoi darne lettura magari i nostri ascoltatori. No, lui vorrebbe una riforma più completa del ciclo, dice partiamo dai bisogni dei ragazzi, dice Mantegazza, anche lui pedagogista. I bisogni dei ragazzi, manca una scuola della preadolescenza che aiuti i teenager a elaborare il periodo dagli 11 ai 12 anni, che va dagli 11 ai 12 anni ai 15-16. Caricare su un tredicenne e sui suoi genitori il peso della scelta del proprio destino è sbagliato. Come si fa a quell'età a scegliere il liceo coreutico o lo sportivo? Ora io mi sono chiesto, ma perché proprio il coreutico e lo sportivo devono scegliere questi? Nel suo esempio, perché sentivo la radio venendo per strada, ma quello che funziona è sport e spettacolo, non ci sono più le 3 W, ma le 5 S, sport, spettacolo, sesso e non so che altro, evidentemente è questa simpatia. La logica. L'idea è dunque quella di primo ciclo di 5 a 6 anni, poi 4 anni di media unica, perché qui invece la logica si ribalta. Qual è la scuola che va peggio? Le medie. Allora allunghiamole più di tutte le altre, mettendo il latino per tutti. Io ricorderei a Mantegazza che il latino praticamente l'hanno levato a tutti, dappertutto praticamente, si fa solo al liceo classico a questo punto nei fatti. Poi si fa finta di farlo allo scientifico, ancora più finta al linguistico, ma insomma. Sì, perché bisogna ricordare, insomma, i nostri ascoltatori lo sanno, ma che la scuola è reduce da una politica di tagli veramente impressionante. Ne andremo a parlare alla fine della trasmissione, sotto un'ottica, diciamo, anche particolare. Tagli che comunque hanno investito tutti gli ordini di scuola con la riforma Gelmini e anche i licei, per cui sostanzialmente un esito di questa riforma è stata di fatto l'eliminazione del latino anche dallo scientifico. E quindi niente, direi che con questo possiamo abbandonare le opinioni della famiglia Letta, Fregonara e amici e mettere un brano musicale. È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. E fa la vita meno amara, mi so comprato sta chitarra. E quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore. La voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata, ma solamente a far in maniera te fammi un sogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone al cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore del lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva le bugie. Canzoni persone belle e appassionate, che Roma mia mi ricordate, cantate solo per dispetto, ma con Asmania trenta al petto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si scolora, e me nessuna si innamora. Sempre per rimanere ancora per un secondo in argomento, vi ricorderete che avevamo dato notizia appunto dell'avvio della sperimentazione dei licei quadriennali in una delle scorse puntate, e siamo andati un pochino a vedere, ci è presa la curiosità di capire un po' meglio come funziona questa sperimentazione nei luoghi dove è già stata avviata, appunto nelle scuole paritarie della Lombardia citate nell'articolo che abbiamo appena letto, e funziona in una maniera, per quanto ci risulta, abbastanza curiosa, perché in realtà gli alunni coinvolti in questa sperimentazione non sono alunni o classi composte in una maniera omogenea, sono singole sezioni quelle che tenteranno questa sperimentazione, ma sono stati coinvolti nella sperimentazione alunni della terza media che negli esami finali conclusivi del primo ciclo, cioè negli esami di terza media, hanno riportato la votazione finale che oscilla tra 8 e 10 decimi, e questo per consentire di svolgere un lavoro didattico intensivo ed efficace. Quindi non si sono presi i ragazzi qualunque, in qualche modo, o se non altro non si è cercato di simulare in questa sperimentazione, ripeto, sull'efficacia di un nuovo metodo didattico, la situazione di una classe normale. No, si sono presi gli alunni migliori delle scuole medie, e questi ragazzi saranno inseriti non in classi da 30, 31, 29, ma in classi che avranno al massimo 25 alunni, e questi 25 alunni svolgeranno lezioni tutti i giorni dal lunedì al sabato in 5 ore settimanali di mattina, e in 3 pomeriggi potranno usufruire di iniziative di studio guidato. Anche gli insegnanti saranno selezionati evidentemente tra insegnanti che hanno specifiche competenze anche nella didattica multimediale, che sembra sia assolutamente necessaria. E chissà se avranno riscaldamento acceso dopo le 13, perché normalmente in provincia di Roma si spenge, ma in provincia di Roma anche prima delle 13 fa freddino a scuola, e i ragazzi che non sono selezionati con voti tra gli 8 decimi e i 10 decimi e stanno a scuola col cappotto, per solito, spesso anche coi guanti. Non so se all'Istituto San Carlo di Milano, dove è attiva questa sperimentazione, i ragazzi possono godere di un clima accettabile. Comunque sia, faranno questi ragazzi frequenti visite all'estero nei vari anni di studio, e conseguentemente per il primo anno visiteranno le istituzioni statali italiane, Quirinale, Parlamento eccetera, ma il secondo anno andranno al Parlamento Europeo, Bruxelles, Strasburgo; il terzo anno faranno una visita a New York presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e poi si incontreranno anche con studenti all'estero e così via. E chissà come andrà questa sperimentazione per questi ragazzi, secondo te? Sti cazzi, mi verrebbe da dire, ecco, cioè, voglio proprio usare questa espressione sessista e volgare. Felice, invece, tu sbagli a prenderla così, perché verrà dimostrato che questi ragazzi sono migliori degli altri, e sarà merito della didattica quadriennale. Ah, è quello il merito, non avevo capito. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone al cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e mi rintonto mi va de bugie. E torniamo alla scuola De Poracci, e per la scuola De Poracci c'è una novità. Il TAR Lazio demolisce la riforma Gelmini dei tecnici e dei professionali, e per la maggior parte degli studenti, il 53% delle scuole superiori italiane, che non vanno il 53% al Mamiani e all'Alfieri a Milano, vanno in altre scuole. Si prospetta il ritorno ai quadri orari in vigore prima della riforma del 2010, con più ore settimanali di materie di indirizzo. perché la riforma Gelmini massacrò, lo diciamo in sintesi, soprattutto i tecnici professionali, con una riforma d'un classismo talmente evidente che pareva fosse impossibile da... Sì, che pareva proprio impossibile, però era un classismo smaccato. E cosa si fece appunto nel 2010? Si presero i tecnici professionali e si tagliarono 87.400 cattedre. Si tagliarono 87.400 cattedre, ma si tagliarono anche tante ore di frequenza a scuola. Per questo si tagliarono le cattedre? Sì, sì, no, diciamo nella ricaduta degli insegnanti e degli studenti. Cioè no. Si disse che si faceva il riordino degli studi tecnici e professionali e si fece così. Si presero le scuole, i tecnici professionali che avevano un numero di ore settimanali che andava dalle 32 alle 42 e si portarono tutti a 32. Si portarono tutti a 32. E come fu effettuato questo taglio? E lo si evince anche leggendo la sentenza. Il taglio è stato effettuato tagliando appunto le materie che avevano un monte ore piuttosto alto, cioè superiore alle 99 ore all'anno, che significa tre ore a settimana. Quindi italiano, matematica, queste materie qua. Solo quelle materie furono tagliate e quindi sono state tagliate sostanzialmente, e lo si evince attraverso la sentenza, l'italiano evidentemente, e poi quelle che sono le materie professionalizzanti o comunque qualificanti di quegli indirizzi di studio. Quindi quei ragazzi si sono trovati deprivati soprattutto in quelle materie che rendevano qualificante il loro percorso scolastico. In aggiunta a questo, il taglio non è stato effettuato diciamo così a partire dalla prima classe iscritta dopo la riforma Gelmini, come per i licei, ma è stato effettuato orizzontalmente su tutte le classi di ragazzi già iscritti. Ed è proprio questo uno dei motivi per cui il TAR del Lazio ha dato ragione ai ricorrenti, perché ovviamente avendolo fatto anche a chi già frequentava il secondo, terzo, quarto, quinto anno, è stato rotto da parte dello Stato quello che viene definito il patto formativo. I giudici amministrativi osservano che le due disposizioni regolamentari, più che recare norme per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, portano, leggiamo il virgolettato, sic et simpliciter, il taglio degli orari. È una cosa che movimenti di studenti e studentesse e di insegnanti, lavoratori e lavoratrici della scuola urlarono per tutto l'anno nelle strade di questo paese, in un movimento che fu anche piuttosto vivace, ma niente, insomma, ovviamente la riforma Gelmini doveva portare a casa quei tagli economici che il governo aveva deciso, quei soldi che il governo aveva deciso di togliere alla scuola, 8 miliardi l'anno, vi ricordiamo, su 40, tuttora è così, si spendevano 40 miliardi l'anno per l'istruzione pubblica in questo paese, dalla materna fino all'ultimo anno delle superiori, con la riforma Gelmini 32, con l'anno dei Monti sono diventati 31. E su questo non è tornato indietro, cioè la carrozza non pare accorgersi, ecco, la carrozza sta là, sproloquia sul fatto che gli studenti sono violenti e quindi la carrozza si vergogni, prima di tutto per questo, perché è veramente l'ora di farla finita, di continuare con questa retorica che è un attacco continuo ai movimenti, al dissenso, alle piazze di studenti e studentesse, quando oltretutto c'è una polizia insomma, credo mi sia concesso di dirlo, rettori veramente inqualificabili che fanno entrare forze di polizia blindati e non blindati ormai in atenei a noi molto vicini o più lontani in termini chilometrici, quindi casomai la vergogna è questa. Però insomma, in tutto questo la carrozza ha due lire sul fatto che la scuola continua a funzionare con 9 miliardi in meno l'anno, non l'ha mai dette. No, mai le ha dette il TAR. in riferimento al nostro, all'argomento appunto del taglio lineare delle ore di frequenza a scuola, che ha dei termini obiettivamente molto duri e parla di un taglio operato secondo criteri di non ragionevolezza e secondo criteri di arbitrarietà, e dice che sostanzialmente l'amministrazione nell'effettuare il taglio non ha enucleato alcun criterio in base al quale individuare le materie in cui il cui orario andrebbe ridotto, e che ha operato quindi in maniera indiscriminata, e sottolinea la sentenza come l'unico criterio sembra essere quello di effettuare tagli di spesa, di arrivare a tagli di spesa, e evidentemente questo ha messo poi le scuole in condizioni di particolare difficoltà, perché fatto salvo il taglio, cioè operato il taglio, è stato sancito parallelamente l'obbligo fatto alle scuole, è stato sancito per le scuole l'obbligo di proseguire l'attività didattica secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio, e quindi sostanzialmente il criterio sembra essere veramente lo stesso rispetto al taglio di un anno delle scuole superiori di cui parlavamo prima, cioè si taglia un anno, si tagliano delle ore, è il massacro della scuola pubblica, ma di fatto si dice, perché si dice solamente perché nessuno è in grado di farlo, che i criteri e gli obiettivi devono essere sempre gli stessi e saranno sempre gli stessi, ed è delittuoso tacere di fronte a questo, io trovo, in modo particolare. L'ex ministro Profumo ci aveva promesso carote e bastoni, aspettiamo le carote, vediamo nel 2014, e con questo vi salutiamo per questa ultima puntata del 2013, perché sono le 16:57, stiamo per lasciare la console al martedì autogestito da femministe e lesbiche, e questa trasmissione tornerà in onda martedì 7 gennaio sempre alle 16, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e quindi vi auguriamo buon anno e buone vacanze agli studenti e alle studentesse, ai docenti e alle docenti, agli ATA no, perché le vacanze non ce l'hanno, gli auguriamo solo buon anno e insomma e buone feste, e soprattutto tutta la nostra solidarietà ai precari e alle precarie della scuola, che questa, a cui quest'anno è stato imposto di usufruire dei loro giorni di scuola durante il blocco natalizio, a differenza invece dei docenti e delle docenti di ruolo che usufruiscono in estate delle ferie. Non che i docenti precari in estate lavorino, ma semplicemente non vengono pagati. Vengono pagati. Detto questo, ci vediamo anno. Il 7.